fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontarti. 3:34 del mattino, sempre il primo dell'anno, martedì 1 gennaio 2019. Per essere precisi, lo ripeto spesso perché dobbiamo un po' prendere l'abitudine a dire 2019. Sarà difficile i primi giorni, poi sarà sempre più facile. Continuiamo a vivere la festa live dai nostri studi, ovviamente Risto Radio Convento. Continuiamo a far girare gli ospiti, far girare gli amici e tutti coloro che ci hanno scelti anche per questo Capodanno. Abbiamo tre amici di Brescia e andiamo a conoscerli, andiamo a salutarli. Io direi, mi perdonerete, partiamo dal gentil sesso. Vai, come ti chiami? Tu sei l'unica donna del gruppo, quindi sì, vai, hai anche quel microfono lì se vuoi. Ah, ok, cos'è che devo dire? Come ti chiami? Parti da quello facile. Sono Giulia. Benvenuta Giulia, da dove vieni? Da Brescia. Da Brescia, bene. È emozionata. Cos'è che devo dire? Ma intanto come ti chiami e da dove vieni? Okay. Per l'ho prendere confidenza, perfetto. Okay. Sei informissima, vai tranquilla. Tutto a posto. Tutto a posto. Poi? Io mi chiamo Alessandro. Mi chiamo Alessandro, vengo da Brescia. Comunque lei non viene da Brescia, ma da Cortine, che è un paesaccio. Beh, è giusto, specifichiamo. Specifichiamo. È piccolo, bisogna mantenere i localismi e esatto. I paesini, bisogna citarli sempre. L'ultimo del gruppo? Mi chiamo Luca, vengo da Brescia e tengo a precisare, io da Brescia, Bovezzo Cortina. Ah, quindi anche tu hai mentito. Cioè, bresciano. Anche tu hai mentito perché hai detto Brescia anche tu. Vengo dalla periferia, Ah, dalla periferia, bene, bene, bene. Perché ho la vista periferica. Ah, giusto, giusto, quindi hai mantenuto questo superpotere. E tra l'altro so che non siete soli perché ho visto che c'è un gruppo un po' più nutrito, giusto? Bravi. Ciao ragazzi, bravo, siete i numeri uno. Applauso, applauso ai tuoi amici, bravi, bravi, onesti, onesti, onesti come si dice. Sempre onesti. Sempre onesti, come sta andando la serata? Vi state divertendo? Avete... Ah, sì, benissimo. Sì, benissimo, molto bene, bene, okay. Bene. Qual era il vostro obiettivo per questa serata? Divertirvi, fare una baldraccata in compagnia, sì, esattamente. Conquistare magari, fare no? Schifo. Fare schifo. Sì, sì. È difficile fare schifo. Sì. È un buon obiettivo. No, per noi no. Ah no? No, no. No, non è così difficile, però mi piace questo senso di onestà perché solitamente, giustamente, uno l'obiettivo è quello di essere sempre perfetto, giusto, corretto. Invece voi avete questo onesti. Difficile. Noi siamo onesti, facciamo schifo, cioè, fare schifo. Ma come, cioè, nel senso, qual è il metro di misura per capire se fate abbastanza schifo per quello che è il vostro livello? Guarda, è abbastanza che ci guardi e poi capisci tutto. Ah, ok, va così. Sì. Quindi dite, già con lo sguardo vi abbastanza così. Vi etichettano, sì. Vi etichettano. Bravi, bravi, ma è un talento anche questo, no? A voi. Noi ci è un talento. Ma guarda che il talento è esattamente quello, è impegnarsi per raggiungere un obiettivo. E quindi il vostro obiettivo è questo e voi avete il talento di riuscire a raggiungerlo. L'abbiamo raggiunto. Esatto. Sì, sì. Bene, no, bene. Allora, io ti dico, non ho ancora raggiunto proprio l'obiettivo. Sei lì lì, a un passo dallo schifo. Sono ancora bellissimo. Ah, ok, ok. Ci stai lavorando. Tra un paio di orette probabilmente sarò. Ah, ok, ok, ci stai lavorando. E tra l'altro è anche un, come dire, un messaggio per tutte le persone normali, diciamo così, perché si sa che dopo le feste devi dimagrire, devi rimetterti in forma. Invece voi state dando un messaggio di... No, un messaggio di tranquillità, cioè esatto. di esprimersi per il proprio peggio e va bene uguale, no? Ognuno deve essere se stesso, secondo me. Esatto. Io sono me stesso e poi da. Però non faccio schifo, sono bello, dipende dai punti di vista. Certo, qualcuno certo. Piaccia, qualcuno faccio schifo. Certo, però voi state mandando il messaggio che anche fare schifo non è un problema. No, assolutamente. Ma guarda che è un messaggio importante perché la società di oggi dice l'esatto opposto, quindi... È bello ed è giusto dirlo, mandare anche questo tipo di messaggio qui. A noi della società non ce ne frega. Beh, vedi, bravo, bravo, anarchico. Sempre. Anarchico. Contro sistema. Sempre. Contro sistema, bene, bene. Volete salutare i vostri amici? Volete dire certo. Qualcosa sì. A loro? Salutiamo. Ciao Pippo, numero uno Pippo. Tutti i ragazzi di Bovezzo. Ciao Milo, grazie ragazzi. Tutti numero uno. Gang. Poco coraggiosi non sono venuti dentro. Sì, esatto. Perché alla fine parlano ma non... È dura affrontare il microfono, non è da tutti, è quello, vero? Eh? Quello che gli manca sono la sbalota, come si dice in Spagna. Certo. Certo, assolutamente. Mancano le palline. Ma guarda che affrontare il microfono non è da tutti. Bene, volete aggiungere qualcos'altro? Oltre ai saluti ai vostri amici, chiaramente. Ma no. Ma non so. L'importante è vivere la vita. Una grande citazione di... La canzone non ce la mezzo. Non mi ricordo chi era. Penso Vasco, qualcosa che no, dice... Era... No, era qualcuno tipo... Che cazzo era quello lì? Era... Io, era vivere me la ricordo di Vasco, io poi non vivere. So se... No, ma era qualcuno dei video, come cazzo chiama quello lì? Stronzo, come si chiama? Quello lì stronzo. Con la cuffia. Con la cuffia, non lo so, sto cercando di interpretare. Ma avevamo fatto un video, non mi ricordo. Vabbè, passiamo oltre. Vabbè, dai, esatto. Passiamo oltre. La gente che vuol capire, capirà. Esatto, bravo, bravo. Mandiamo anche comunque messaggi tanto criptici. A tutti. Bravo, buon bravo. Buon anno! Non urlare, per favore, non urlare. Sembrava anche un po' il suo messaggio alla Mattarella, che secondo me. Forza Inter. Forza Inter, bravo, sempre, solo e comunque. Bravi ragazzi. Pazza Inter amala, è una gioia infinita che dura una vita. Pazza Inter amala. Perfetto, adesso mandate un defibrillatore per la nostra amica Giulia, sì, perché in questi 4 secondi più. Ha avuto un colpo al cuore. Sì, Giulia, esatto. Poverina, lasciamola lì dove. No. Mi odia Fes. Sì, non si era notato. No, te lo dico che è una tua impressione, perché non si nota. No. Annuncia. Giulia Foini da Cortine. È completamente disponibile. Alessandro Epis mi ama, ma non lo dice a nessuno. È vero. È completamente io rimango estraneo a queste sono cose. Sono silenzio, non vorrei... stampia come Mourinho. Esatto. Io non vorrei creare rotture nel trio. Giulia Foini da Cortina, disponibile. Contattatevi. Contattatevi. Già cercato di. Il numero. Dai, non esageriamo. Non esageriamo. Allora, quelle due bionde lì hanno un sacco di voglia di venire dentro ad essere intervistate. Adesso le andiamo a prendere. Glielo chiederemo assolutamente. Intanto io vi ringrazio per essere stati con noi. Vi auguro buon divertimento per questa fine serata e in bocca al lupo per tutto. Grazie. Ragazzi, grazie mille. Ciao. Ciao, grazie. Ciao.